Vangelo di San Luca, capitolo settimo. Dopo che egli ebbe finiti tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Ora il servitore di un certo centurione, che l'aveva molto caro, era malato e stava per morire. E il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Ed essi, presentatosi a Gesù, lo pregavano istantemente dicendo: «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificata la sinagoga». E Gesù si incamminò con loro, e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono un uomo sottomesso alla podestà altrui, ed ho sotto di me dei soldati, e dico ad uno: va, ed egli va, ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servitore: fa questo, ed egli lo fa». Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla moltitudine che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una cotanta fede». E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servitore guarito. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: «Non piangere». E accostatosi toccò la bara, e i portatori si fermarono, ed egli disse: «Giovanetto, io te lo dico, levati». E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: «Un gran profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo». E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. E i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò al Signore a dirgli: «Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» E quelli presentatisi a Gesù gli dissero: «Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti: sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti di malattie, di flagelli e di spiriti maligni, e a molti ciechi donò la vista. E rispondendo disse loro: «Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, han reso giustizia a Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni, ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque somiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino e voi dite a un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo e voi dite, ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figliuoli. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rugargli di lacrime i piedi, e li asciugava coi capelli del suo capo, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, «Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia questa donna che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù rispondendo gli disse, «Simone, ho qualche cosa da dirti». Ed egli, «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse, «Stimo sia colui al quale ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Hai giudicato rettamente». E voltosi alla donna disse a Simone, «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Ma colui di cui poco è rimesso, poco ama». Poi disse alla donna, «I tuoi peccati ti sono rimessi». E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé, «Chi è costui che rimette anche i peccati?» Ma egli disse alla donna, «La tua fede t'ha salvata, vattene in pace».